l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose. Tanto è forte che non morirà, non sfiorirà. Io lo difenderò da tutte quelle insidie velenose che vorrebbero strapparlo al cuore, povero amore. Forse te ne andrai, d'altri amori le carezze cercherai. Oh, oh yeah. E se tornerai, già sfiorita la mia vita troverai. Lo sai. Finché vivo sarà vivo in me solo per te, ma l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose. Tanto è forte che non morirà, non sfiorirà.